Radio 24 e Salone del Libro 2011 presentano L'Italia in 15 libri. Giovanni Guareschi, Don Camillo. Ecco il paese. Ecco il piccolo mondo di un mondo piccolo piantato in qualche parte dell'Italia del Nord. Là, in quella fetta di terra grassa e piatta che sta tra il fiume e il monte, tra il Po e l'Appennino. Don Camillo e Peppone sono probabilmente la coppia letteraria, prima che cinematografica, più rappresentativa dell'Italia del dopoguerra. Uscita dalla penna di Giovannino Guareschi nel 1948, proseguirà a vivere sia nella pubblicazione di nuovi episodi della fortunata serie di romanzi, sia nelle 5 pellicole interpretate da Gino Cervi e Fernandel, Il ricordo di Gigi Garanzini. È uno dei libri che ho amato di più, senza dubbio, perché è uscito nell'anno in cui sono nato e mi ha aiutato, leggendolo intorno ai 15-16 anni, a riscoprire le mie radici. Di sicuro ci ha ricordato una grande massima manzoniana, quella secondo cui il torto e la ragione non si dividono mai con un taglio netto. D'altra parte, anche Mondo Piccolo come I Promessi Sposi è un affresco potente, molto potente di un'epoca. Nato nel 1908 in provincia di Parma, Giovannino Oliviero Giuseppe Guareschi ha affrontato fin da giovane l'attività giornalistica, prima come cronista e poi come caporedattore della rivista satirica Bertoldo. Ufficiale d'artiglieria, dopo l'8 settembre 1943, fu internato in un campo di concentramento tedesco per non rinunciare al giuramento di fedeltà al re e passare con le forze repubblichine fasciste. Dopo la guerra si scagliò però contro il Fronte Popolare, il raggruppamento politico della sinistra a cui si opponeva la Democrazia Cristiana. Cittadini, non dimenticate, lista Pepone, lista Baffone, chi vota Colomba si scava la tomba. Fine. Fra qualche istante ascolterete sulla piazza la voce della Russia. Però prima ascolterai quella di Pepone. Ma chi è Giovannino Guareschi? Ecco come lo ricorda Indro Montanelli in uno speciale di Italia 1 nel 1985. Guareschi è una specie di Rabelais emiliano, come Rabelais ha un'espressione massiccia, i suoi personaggi sono spesso molto sommariamente abbozzati, ma la sua risata è gorgogliante, piena di sangue, piena di salute, è veramente è quella di Guareschi, che è fatta poi di 500 parole al massimo. Il vocabolario di Guareschi era molto limitato, è una prosa viva e estremamente, estremamente vitale, e che, contrariamente a quello che pensano i critici letterari, è destinata a durare. Don Camillo è uno dei 15 superlibri selezionati dal Salone Internazionale del Libro per il suo ruolo fondante dell'identità italiana, la litigiosità del dopoguerra, la natura ancora contadina dell'Italia repubblicana, lo scontro tra cattolici e comunisti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Fratelli, Gesù è disceso sulla terra per riscattare i peccati dell'umanità. Egli ha scelto di nascere non borghese, ma proletario. Perché solo chi lavora, soltanto chi suda, sa cosa sia la sofferenza. Monsignore, qui si para, i comunisti siamo noi. Il cristianesimo è una religione democratica basata sul lavoro. Su tutto questo, lo sguardo bonario e insieme graffiante di Giovannino Guareschi, che anche da scrittore non rinunciò al sarcasmo con cui scriveva sul Bertoldo e poi sul Candido. Ancora Gigi Garanzini. Giovannino Guareschi è stato l'impressionista del secondo dopoguerra italiano. È come se la sua penna, in luogo del pennello, avesse fermato per sempre sulla tela il paese povero e lacerato, ma moralmente sano e solidale di quell'epoca. Se oggi sembra appartenere a un'epoca lontana e felice, è solo perché il mondo più grande in cui viviamo oggi è molto più povero, più misero dal punto di vista umano e morale, temo. E si può dire che nei personaggi di Don Camillo e Peppone Guareschi abbia descritto e ferocemente preso in giro, prima di tutto, se stesso. Tutte, anzi ognuna di queste mie storie partono da uno spunto vero. Io funziono come il fabbro che trova un pezzo di ferro, lo fa scaldare e a colpi di martello ne cava fuori o una rosa o un catenaccio o la maniglia della porta della cantina. Insomma, ferro lavorato, ma sempre ferro rimane. L'Italia in 15 libri è un programma di Guido Scotti. Tutte le puntate sono scaricabili all'indirizzo www.radio24.it.